Situazioni di disagio in un mondo occidentale stretto nel suo stesso agio, chiuso nel plagio di sta sofisticata variante tecnocratica di tirannia eclissata. Osservo l'avvenire cercando di scoprire quale sia il contesto per la facoltà di agire. Nel fondo di me stesso minimizzo le mie mire, emergendo tipo il Buddha dallo sporco divenire, immergendomi nell'uno di nessuno e rinunciando all'apparire mi impedisco di soffrire, ma inibisco le mie umane qualità. Quali ne ha chi consacra la realtà e la pluralità? Vorrei un centro di gravità al di là dell'insana necessità dei presupposti falsi della nostra falsa libertà. Cagliarandaggio, in cattività reso malvagio, cresciuto a pane tele, dipendenze e varie mode, attesto del banale l'assassino potenziale, perché io sono il sintomo di un mondo che ora implode. Cagliarandaggio, in cattività reso malvagio, cresciuto a pane tele, dipendenze e varie mode, attesto del banale l'assassino potenziale, perché io sono il sintomo di un mondo che ora implode. L'inconsistenza stessa del contesto, l'incongruenza in cui mi manifesto e il resto è espresso. Un disagio esistenziale ormai diffuso, il cui riflesso è lampante nel bisogno di ricerca del successo, in cui l'identità è degradata essere un mezzo e il prezzo è il concetto stesso del diverso, che si è perso in questo morbido relativismo insulso e viene pagato dal dominio incontrastato dell'impulso. Un insulto alla passione che avvolge le persone nelle verità del falso, di un cosmo condannato che è scomparso come fosse relegato nello spazio tipo un punto d'Archimede. Rimane un tempo che procede, non concede al passato, al futuro, ma con l'istanza di un dogma di fede. Incessante il presente trascina che cede, e se succede che cede, viene esiliato e condannato ad essere parte delle prede. Cagliarandaggio, in cattività reso malvagio, cresciuto a pane tele, dipendenze e varie mode, attesto del banale l'assassino potenziale, perché io sono il sintomo di un mondo che ora implode. Cagliarandaggio, in cattività reso malvagio, cresciuto a pane tele, dipendenze e varie mode, attesto del banale l'assassino potenziale, perché io sono il sintomo di un mondo che ora implode. Braccato, schiacciato nella società che mi ha creato, cresciuto, nutrito, rinvigorito con germogli di emozione fatti in vitro, assistito alla mia stessa affermazione che credevo fosse il frutto dell'avere insistito, mentre invece avevo solo desistito. Eh sì, mi ero adattato a questo luogo surreale che dispone le persone a lavorare, ingrassare e scopare per cercare un altro lusso in cui affogare. Se ti fa strano fermarti a guardare me stesso passare i miei giorni a studiare, non ti tranquillizzare, è il barlume mentale che mi rende un criminale. Reconfesso di pensiero eterodosso ed assassino del banale, fin da che mi sono esposto a criticare anche me stesso in questo testo in cui mi nego, mi spiego, ma non mi rinnego, eppur mi piego alle stanze del mio credo, il pensiero. Cagliarandaggio, in cattività reso malvagio, cresciuto a pane tele, dipendenze e varie mode, attesto del banale l'assassino potenziale, perché io sono il sintomo di un mondo che ora implode. Cagliarandaggio, in cattività reso malvagio, cresciuto a pane tele, dipendenze e varie mode, attesto del banale l'assassino potenziale, perché io sono il sintomo di un mondo che ora implode. In cattività reso malvagio, cresciuto a pane tele, dipendenze e varie mode, attesto del banale l'assassino potenziale.